Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica, benvenuti a Magazine 24, appuntamento settimanale con le riviste italiane e straniere. Voglio cominciare questa mattina da una conferma di tipo tecnologico-scientifico, conferma perché qualche volta abbiamo intercettato degli articoli, delle inchieste che parlavano del tema e adesso vedo che questo stesso tema viene in realtà a dilagare anche su altre testate. Sul venerdì che è stato dato con Repubblica appunto 2 giorni fa, Alex Saragosa ci informa che oramai ce l'hanno fatta, sono riusciti praticamente a costruire il computer che legge nel pensiero. Io non so se questa sia una buona o una cattiva notizia, perché potrebbe anche in realtà metterci in imbarazzo. Chi ci è riuscito? Ci sono riusciti a Berkeley e ti pareva? Sono riusciti a ricostruire, spiega appunto il sommario dell'articolo, partendo da una risonanza magnetica, l'immagine che aveva visto un volontario. Spiega poi l'articolo, che sta nella sezione appunto di tecnologia del venerdì, mostrare i sogni su uno schermo come foto delle vacanze. Fantascienza? Non proprio. All'Università della California, a Berkeley, 2 neurologi, si chiamano Shinni Nishimoto e Jack Gallant, hanno chiesto a volontari sottoposti a una risonanza magnetica di vedere trailer di film. Un software intanto analizzava sia le immagini che i volontari stavano guardando, sia il livello di attività delle varie parti del loro cervello. L'attività cerebrale è registrata dalla risonanza magnetica come una sorta di mappa tridimensionale del cervello, in cui ogni cubetto di pochi millimetri di lato, un voxel così si chiama, viene associato a un livello di attivazione dei neuroni al suo interno, indicato appunto da quanto sangue sta alimentando i neuroni. I ricercatori hanno quindi costruito una serie di mappe di attività cerebrale, accumulati molti dati, hanno poi tentato di far ricostruire a un software che cosa stesse vedendo un volontario sulla base appunto dell'attivazione di questi voxel, di questi cubetti. Il software ha fuso insieme delle scene casuali che aveva prelevato da YouTube e alla fine ne ha ricreata una che secondo appunto i calcoli avrebbe dovuto produrre la stessa attività cerebrale registrata nella persona in quel momento. Ora, l'immagine è confusa, scrive Saragosa, ma in effetti è simile a quella vista. Quindi ci stanno riuscendo a costruire un computer che leggerà anche i nostri pensieri. E allora, dovremmo forse preoccuparci, dovremmo essere felici di questa notizia? Non lo so, forse un po' dovranno preoccuparsi i politici. Su Panorama di questa settimana c'è una classifica dei politici su Twitter. Twitter, per chi non lo sapesse, è un social network che funziona in base a brevi messaggini. Ogni partecipante, e sono milioni in tutto il mondo, manda dei brevi messaggini dove informa coloro che lo seguono delle varie novità che tiene importanti. Sono andati a vedere come si posizionano i nostri politici. Twitter è stato determinante anche nelle elezioni di politici all'estero, ad esempio nella campagna presidenziale di Barack Obama, e c'è questo servizio su Panorama che si chiama 5T di lotta e di governo. 5T perché tweet vuol dire proprio cinguettare. E qui si vede che ad esempio il politico più seguito su Twitter è Nikki Vendola, sta a 94.000 seguaci, si chiamano follower, quindi persone che seguono quel politico. Poi c'è Antonio Di Pietro, 51.000, poi Bersani, 47.000, quasi 48.000, e scendendo poi si trovano ad esempio Pier Ferdinando Casini a 14.400, Roberto Formigoni a 8.346. Però se allarghiamo un po' lo spettro e comprendiamo Beppe Grillo così come ha fatto Panorama, vediamo che Beppe Grillo ha la bellezza di 164.000 follower, cioè seguaci, persone che lo seguono su Twitter. Che cosa poi cinguettino, che cosa mettano in rete i politici? Beh, questo è da vedere. Talvolta appunto si critica anche il mancato aggiornamento, la mancata tempestività proprio di questi tweet. Se poi arriverà il computer di cui abbiamo detto prima, beh, sarà allora un problema in più. Restiamo su Panorama perché mi fa piacere notare che Fausto Biloslavo è andato a riprendere un'inchiesta uscita sul Sole 24 Ore di qualche settimana fa. Il Sole 24 Ore aveva pubblicato una ricerca in cui si faceva un po' la graduatoria della fedeltà fiscale dei paesi. La ricerca, per dirla in modo molto semplice, si basava su una correlazione di dati e non dava ovviamente la percentuale dell'evasione in modo assolutamente inoppugnabile. Segnalava dove potevano essere molto più probabili o meno probabili delle infedeltà fiscali. Bene, il paese più virtuoso per questa classifica è risultato San Michele al Tagliamento. E allora Biloslavo per Panorama è andato a San Michele al Tagliamento a vedere questo paese in cui all'appello mancherebbero soltanto 18 contribuenti su 12.000 abitanti. Quindi un record, tutti fanno le ricevute fiscali, tutti dichiarano i propri redditi. Beh, quasi tutti, in realtà appunto 18 non si sono trovati. Spiega appunto nelle prime righe, secondo una ricerca pubblicata al Sole 24 Ore, questo paese risulta l'ultimo nella lista nera della infedeltà al fisco e in pratica è il comune italiano più virtuoso, con il 99,8% della popolazione che presenta regolarmente la dichiarazione dei redditi, da cui appunto si ricavano questi potenziali evasori, che sarebbero soltanto 18. La località balneare vicino a San Michele al Tagliamento, appunto Bibione, passa da 2.500 abitanti a 150.000 durante il periodo estivo. Risulta difficile, conoscendo un po' le abitudini estive dei dettaglianti, immaginare che tutte le questioni, tutte le transazioni avvengano in modo fiscalmente corretto. Infatti Biloslavo segnala: le spiagge sono però invase da coloro che vendono asciugamani a stagione in nero, secondo appunto un barista sono tutti immigrati, Vucumprà e così via, quindi gente che verrebbe da fuori in qualche modo in questa sorta di campanilismo fiscale che viene registrato da Biloslavo. Poi, scavando un po' meglio, l'articolo va a segnalare che non tutto potrebbe essere così roseo. Dice a un certo punto Biloslavo: Sandra e Daniele hanno un chiosco sulla spiaggia da 23 anni, hanno una visione realistica. La denuncia dei redditi la presentano tutti, ma poi quanto si dichiara, quello è un altro paio di maniche. Perché? Perché la pressione fiscale è troppo alta, come sappiamo, così come i costi della politica. Però la scorsa estate, raccontano i due gestori, la scorsa estate alcuni turisti milanesi si sono stupiti perché Daniele faceva lo scontrino anche per un caffè, e questo è un comportamento invece corretto di cui in realtà non dovremmo stupirci, ma abbiamo dovuto scomodare un inviato, appunto Biloslavo per Panorama, per raccontare la storia di questo paese potenzialmente più virtuoso d'Italia. Cambiamo completamente argomento perché su 7, che trovate con il Corriere della Sera, lo trovate da giovedì, ma come sapete resta in edicola anche nei giorni successivi ed è sempre acquistabile con il quotidiano di Via Solferino, c'è un bel lavoro di Camilla Baresani, La verità sul cacao, perché il cacao pochi sanno che aspetto abbia la pianta, dove venga coltivata, la maggior parte dei divoratori di praline e tavolette ignora gli ingredienti. E allora racconta Camilla Baresani la storia del cacao, e qui si impara, leggendo questo articolo, che ci sono delle testimonianze di produzione di cacao del 1800 avanti Cristo in America centrale. Da allora, per centinaia d'anni, la cioccolata è stata però consumata solo in forma liquida. Era una bevanda che sappiamo destinata alle classi sociali più elevate, che si trattasse dei nobili aztechi o invece delle damigelle di corte a Parigi. Poi molti sappiamo che in Europa la cioccolata è arrivata tardi, quindi nel 1500, a seguito appunto dei conquistadores spagnoli, fu un dono per il re di Spagna Filippo II, e in Italia si diffuse perché principalmente attraverso la rete dei monasteri e dei conventi degli ordini religiosi. Tra l'altro ci fu una disputa teologica di cui la Baresani riferisce, la disputa verteva su questo punto: bere cioccolata durante i giorni di digiuno fa interrompere o no il digiuno. Vado subito alle conclusioni perché la cosa affaticò i teologi del tempo. Berla durante un digiuno rituale non infrangeva il digiuno se non ci si aggiungevano zucchero, vaniglia o cannella. Questa la storia appunto anche teologica della cioccolata. E poi il cioccolato che conosciamo adesso, il cioccolato solido. Quello arrivò nel 1828, leggo sempre da 7, quando grazie alle scoperte di un chimico olandese che si chiamava Conrad Johannes van Houten, si compì la prima vera rivoluzione del mondo del cacao. Da quel momento fu possibile non solo realizzare cioccolato solido, ma anche produrlo in larga scala, a bassi costi, e renderlo per la prima volta un prodotto alla portata di tutti. Magazine 24. Bentornati, bentornati a Magazine 24. Prima di fermarci per dare la parola alle informazioni sul traffico, abbiamo raccontato, grazie al contributo di Camilla Baresani su 7, la storia del cioccolato e di come si è arrivati finalmente, ma solo appunto nel 1800, a produrlo in forma solida e quindi a favorirne la commercializzazione. Vi voglio dire tra l'altro che in questi giorni, insieme al Sole 24 Ore, stiamo proponendo una collana molto particolare che è dedicata alla grande pasticceria d'autore. Il primo volume che probabilmente avete visto, avete intravisto in edicola in questi giorni, è proprio sui dolci al cioccolato, quindi sfrutto questa coincidenza per segnalarvi anche una nostra proposta editoriale. Così come oggi, come tutte le domeniche ormai da diverse settimane, trovate con il nostro quotidiano i racconti d'autore. L'appuntamento di oggi è con Montalbán, Manuel Vázquez Montalbán, e due suoi racconti, due storie del detective Pepe Carvaio. I lettori di Montalbán sapranno benissimo di cosa sto parlando. I titoli sono Appuntamento mortale all'Up and Down e Jordi Anfrus, sociologo sessuale. Sono i due racconti di Montalbán che trovate oggi con il Sole 24 Ore. Cambiamo completamente argomento perché vi voglio segnalare una cosa dall'Economist, anzi due in realtà. Talvolta poter vedere la stampa estera o leggere la stampa estera ci aiuta magari a fare chiarezza anche sulle situazioni nazionali, viste dall'esterno si depurano in qualche modo di troppe tensioni e l'osservatore che ci guarda dall'esterno, se può rischiare di essere grossolano da una parte, però dall'altra magari riesce ad arrivare al nocciolo della questione. L'Economist questa settimana si occupa di noi, dell'Italia voglio dire, in ben due punti. In uno praticamente riassume il braccio di ferro che c'è stato all'interno della maggioranza sulle pensioni di anzianità, in un altro che invece è quello che vi voglio segnalare, che è un corsivo, uno dei corsivi dell'Economist, si riassume il nostro vero vincolo esterno. Voi sapete che si parla spesso della nostra incapacità, dell'incapacità come italiani di agire, di fare qualche cosa di definitivo finché non siamo costretti in qualche modo dalle circostanze. È solo appunto quando siamo proprio costretti, stressati, premuti dalle circostanze, allora riusciamo finalmente a metterci in movimento e a fare qualcosa, spesso in modo anche geniale, in modo particolarmente inventivo. Quale sarebbe il nostro vero vincolo esterno adesso? Non proprio l'Europa, neanche la crisi. In realtà il nostro vincolo, riassume questo nel lungo corsivo dell'Economist, è Draghi. Mario Draghi, che da governatore della Banca d'Italia passa alla presidenza della BCE, della Banca Centrale Europea. E perché sarebbe così? Perché il sistema è talmente stressato in questo momento, è talmente colpito dalla crisi, che la BCE ha un ruolo determinante, appunto quello di poter garantire la liquidità necessaria alle banche e a evitare appunto che il sistema economico soffra troppo per l'effetto della crisi. Ma si chiede l'Economist a un certo punto, verso la parte finale, ma Mr. Draghi, a capo della BCE, oserebbe fare ricorso tranquillamente ai fondi della BCE per dare garanzie, e questo contro i desideri della principale azionista, così lo chiama, la Germania? La Germania, naturalmente, essendo l'economia più importante d'Europa, in qualche modo detta legge o comunque voce in capitolo più importante nella gestione della banca centrale. Così si conclude con un titoletto interno al capitolo che dispiace, perché l'ultimo capitolo di questo commento si intitola Povera Italia, e vi leggo direttamente dall'Economist. Nessuno, dice, vuole davvero sapere la risposta a questa domanda, cioè ma Draghi potrebbe ricorrere a liquidità o meno. Certo, bisognerebbe aiutare l'Italia anche se la situazione italiana fosse meno infiammabile, anche se l'Italia è ancora testardamente resistente alle riforme, e la indolente generazione politica che è seguita all'avvento appunto di Berlusconi potrebbe finalmente doversi fare da parte, ma non c'è in questo momento nessun ovvio rimpiazzo, nessun naturale rimpiazzo. Allora un'idea è ricorrere, come è successo in passato, a un governo tecnico per portare avanti, per implementare le riforme ispirate dall'Europa con il sostegno di tutte le parti politiche. Ma così, 150 anni dopo la sua fondazione, l'Italia ancora ha bisogno del vincolo esterno, e questo è scritto proprio in italiano, vincolo esterno. E questa volta il ruolo che già era stato rivestito, ricoperto dagli americani e dall'Europa, toccherà proprio a un italiano, cioè a Mario Draghi. Tutto questo sull'Economist. Allora, due segnalazioni per chiudere, una diciamo in tinta con le questioni economiche di cui abbiamo parlato. Dall'Espresso, una bella inchiesta di Riccardo Bocca sugli usurai, vite strozzate, un imprenditore respinto dalle banche, costretto a rivolgersi agli usurai, rovinato per 5.000 euro. In Italia accade sempre di più, avverte Riccardo Bocca sull'Espresso, e tra l'altro stanno diminuendo, dopo una fase di aumento negli anni passati, stanno diminuendo le denunce, e questo viene spiegato non con una riduzione del fenomeno, che anzi in tempi di crisi è presumibilmente in crescita, ma per un aumento della paura, perché come poi spiega l'articolo dell'Espresso, come spiega l'articolo di Riccardo Bocca, i metodi degli usurai naturalmente non sono esattamente corretti, sono molto molto convincenti e fanno volentieri uso di violenza per costringere le loro vittime a pagare. Tutto questo sull'Espresso di questa settimana. Allora, Anita Panizza dall'altra parte del vetro mi fa accenno che siamo arrivati quasi in chiusura, così conferma anche Fabio Cantadori, che questa mattina è in regia, e io non voglio certo dispiacere ai miei due angeli custodi, quindi mi avvio all'ultima segnalazione. L'ultima segnalazione che traggo da Panorama Travel, una segnalazione leggera anche per sollevarci insomma da questi argomenti un pochino cupi che abbiamo affrontato nella seconda parte. Che cosa ci portiamo in viaggio? Beh, secondo un testo di Paolo Novaresio che sta nelle prime pagine di Panorama Travel, portiamo davvero di tutto, perché negli uffici oggetti smarriti degli aeroporti soprattutto si trovano cose impensabili: bonghi, biciclette pieghevoli, smeraldi, armature, e è capitato anche di ritrovare un cranio umano, probabilmente usato per compiere riti voodoo, così almeno si è giustificata la passeggera che è stata pizzicata con questo particolare oggetto nascosto nel bagaglio. Era, si dice, una distinta signora trentenne, arrivava dal volo da Haiti, e quel cranio le serviva per scacciare gli spiriti maligni. Non ci viene riferito come l'abbiano presa gli ufficiali della dogana, immagino non benissimo. E questa l'ultima segnalazione per la puntata di oggi. Vi ricordo che se volete riascoltare questa puntata, così come tutti i programmi di Radio 24, e avere informazioni sui nostri programmi, potete collegarvi al sito www.radio24.it. Se volete scriverci, abbiamo una casella di posta elettronica: magazine24@radio24.it. E con questo è tutto, buona domenica a tutti.